Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sei minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. E allora fine. No, vabbè, la buttiamo un po' a ridere perché oggi meno 4%, andiamo con le cifre e poi ne raccontiamo la giornata. Meno 4% in questo momento Milano, meno 3,90 a Parigi, meno 4,80 a Francoforte, Londra meno 3,40. Da che l'America è chiusa per festività, da che si capiscono un paio di cose: A, che Francoforte perde più di Milano; B, che il calo è generalizzato; C, che riguarda non solo i mercati azionari, ma riguarda anche gli altri mercati. Quello valutario, l'euro è sceso sotto quota 1,42, 1,41,03, ma soprattutto il petrolio è in deciso calo a 84,3 dollari il barile, e praticamente in calo sia WTI, ma soprattutto quello del Mar del Nord britannico. Il gufo, il cigno nero, un attimo, insomma, piano tutti quanti. Oggi il gufo non lo usiamo, se ce la facciamo, perché si rifiuta, è in sciopero, anche lui come la CGIL dichiara lo sciopero il nostro gufo. E il mercato sta peggiorando, meno 4,14 adesso. Vi do i titoli, poi andiamo ad analizzare con un po' di freddezza anche i motivi. Alcuni sono motivi europei e internazionali, altri sono motivi che riguardano strettamente il nostro paese. Intanto i titoli: il peggiore in questo momento è Exor, perde il 6,76%, Intesa San Paolo perde il 6,60%, Unicredito perde il 6,07 a 84 centesimi di euro, come Intesa è a 1 euro per azione. Fiat Industrial perde il 6,43%, Fiat il 6%. Poi c'è Impregilo che perde il 5,70%, Finmeccanica il 5,50% come Saipem, il 5,20% lo perde Fondiaria, ma anche Mediaset e Buzzi Unicem, il 4,80% lo perde Enel Green Power, ma anche Tenaris, il 4,70% il calo di Azimut ed STMicroelectronics, il 4,40% lo perde la Popolare di Milano, il 4,20% il Monte dei Paschi, il 4% UbiBanca. Restiamo su chi perde più del 3, che si chiama Atlantia, meno 3,90, Pirelli meno 3,80 come Eni, Campari meno 3,60 come Enel e Tods, Telecom Italia meno 3,5, Luxottica meno 3,30 come Autogrill, il 3,1 perde Ansaldo e anche A2A, il 3% Prismian. Il miglior titolo Bulgari, che è invariato. E questo è quello per quello che riguarda i mercati. Poi c'è, insomma, la situazione più generale. Che cosa è successo? Già venerdì, dopo i dati che riguardavano la disoccupazione americana e che andavano a indicare il rischio ancora più forte di una seconda recessione negli Stati Uniti nel fine 2011, inizio 2012, ricordo che venerdì per la prima volta gli Stati Uniti non hanno creato occupati, il numero di occupati è rimasto fermo per la prima volta dal 1945 e il tasso di disoccupazione è rimasto al 9,1%, gli analisti si attendevano praticamente un aumento di almeno 70.000 posti di lavoro. Già venerdì questo dato aveva avuto una ripercussione molto forte su tutti i mercati a partire da quelli europei. Che cosa si è aggiunto nel frattempo? Allora, si è aggiunto un peggioramento di quasi tutti gli spread, ma soprattutto dei CDS, ossia i credit default swaps, ossia il premio, quanto costa il premio per assicurarsi, se si fa una polizza, per assicurarsi sul rischio fallimento di un paese in questo caso. È ovvio che più alto è il premio, come avviene per gli automobilisti, usiamo sempre questo esempio, più a rischio sei tu. E quindi più alto è il CDS, più vuol dire che quel paese è a rischio, perché devi pagare un premio, tra virgolette, più alto per assicurarti. Allora, sui CDS l'analisi è chiara. L'Italia è volata a 422 punti, gli spagnoli a 410 e poi i francesi sono volati a 180 punti. I due paesi più a rischio restano la Grecia, che ha 2.428 punti, e va bene, si fa per dire, e l'Irlanda, che è 825. La cosa così che fa un po' specie è che l'Italia veda un premio più alto, quindi un rischio più alto rispetto alla Spagna. Un elemento questo che viene confermato anche da un altro dato, il cosiddetto spread, e cioè la differenza tra quanto costa la Germania trovare finanziatori per il suo debito e quanto costa l'Italia. Questa differenza si vede nei rendimenti. Più sei a rischio, più devi offrire un rendimento alto. Un po' anche qui come avviene quando uno va in banca e chiede un prestito. Più è a rischio, più deve pagare un interesse alto. Allora, la differenza tra quanto costa noi e quanto costa la Germania è schizzata a 368 punti, che è un livello altissimo. La cosa anche qui che fa specie è che è un livello ben più alto di quello spagnolo, 338 punti. Allora, siccome fino a maggio, giugno, abbiamo sempre detto che la Spagna, e lo dimostravano sia gli spread che i CDS, che la Spagna era un paese ben più a rischio dell'Italia perché aveva un mercato del mattone, del real estate, ben più in bolla rispetto a quello italiano, non esportava come l'Italia, non ha la manifattura che ha l'Italia, non ha il risparmio che ha l'Italia, ha un problema sulle casse di risparmio regionali, non da poco. La domanda adesso è perché l'Italia viene da questi due indicatori fondamentali ritenuta più a rischio della Spagna? Ecco, secondo molti operatori, questo è il caso italiano, al di là del caso europeo e generale dell'economia dei paesi occidentali, l'Italia sta impressionando in maniera negativa i mercati e i paesi europei con la sua manovra. Ossia la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna ha annunciato, Zapatero ha detto che non si ricandiderà, ha fatto una legge finanziaria straordinaria di emergenza in accordo con l'opposizione e ha fissato la data per le elezioni. Questo è quello che ha fatto la Spagna. In Italia questo non è successo, ma soprattutto le indicazioni obiettivamente molto contraddittorie che arrivano dalla finanziaria non blindata stanno facendo peggiorare il nostro giudizio a livello internazionale. Non solo il Wall Street Journal e il Financial Times delle settimane scorse, oggi, e ve lo racconteremo fra un attimo, sono intervenuti con un peso non da poco sia l'attuale presidente della Banca Centrale Europea Trichet, sia il futuro presidente Mario Draghi, attualmente ancora governatore della Banca d'Italia. E questo è il quadro mondiale, europeo e poi anche italiano. L'Italia, ripeto, ha degli spread dei CDS nettamente più alti rispetto a quelli spagnoli. 349-238-6666 per i vostri sms. Potrebbe andare anche peggio? Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. È da stamattina infatti che tutti gli indicatori spread, CDS, borse continuano a salire per quello che riguarda l'Italia. Ripeto, l'Italia non è la peggior borsa in questo momento, Francoforte perde più di noi quasi il 5% e già in mattinata con la chiusura di Tokyo si era capito che le cose non sarebbero andate nel verso migliore, meno 1,86% Tokyo, che in realtà non risente dell'Europa ma risente dei timori molto forti sull'economia americana. Poi in mattinata è arrivato anche un dato, l'indice del PMI dell'area euro, quindi dei direttori d'acquisti nel settore manifatturiero e terziario, è sceso a 50 punti ai minimi da 2 anni. E poi un dato che dovrebbe far riflettere: i depositi overnight delle banche europee sono ai massimi dall'agosto del 2010, cioè hanno depositato le banche 151 miliardi di euro overnight presso la banca centrale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le banche, in preda a una crisi di fiducia, preferiscono, invece che investire questi soldi come dovrebbero fare, e investirli si spera non in attività rischiose, preferiscono depositarli come un correntista da cassa automatica dentro la banca centrale europea pur di non rischiare un loro altro impiego. La Banca Centrale Europea, che nel frattempo ha fatto sapere di aver acquistato anche la settimana scorsa 13 miliardi di euro di obbligazioni, ne ha comprate 36 miliardi di obbligazioni italiane per mantenere basso il rendimento rispetto a quello che sarebbe invece il rendimento che vuole il mercato. E beh, dalla Banca Centrale Europea arrivano indicazioni che sono sembrate una doccia fredda. Perché il numero uno Trichet ha detto, insomma, il patto di stabilità europeo è stato indebolito da Roma, Parigi e Berlino. Abbiamo creato un patto con l'obiettivo di prevenire gli squilibri delle finanze pubbliche dell'area euro, ma nel corso degli anni, sotto l'impulso dei maggiori paesi, in particolare Germania, Francia e Italia, si sono allargate le discrezionalità e le flessibilità nelle procedure di sorveglianza. Occorre subito attuare un accordo e riprendere gli accordi presi dai capi di Stato e di Governo lo scorso 21 luglio nel Consiglio dell'Unione Europea. Ma la vera doccia fredda oggi l'ha fatta Mario Draghi. Perché? Perché Mario Draghi ha detto: attenzione, non si diano per scontati gli acquisti di obbligazioni da parte della Banca Centrale Europea. Questo vuol dire che finora la Banca Centrale Europea ha comprato obbligazioni italiane perché ha creduto nella serietà della manovra. E mi dispiace che qualcuno la voglia mettere in polemica, adesso rispondo anche a un ascoltatore particolarmente pervicace, ma citiamo le notizie di oggi. Dice Draghi: non si diano per scontato gli acquisti di obbligazioni da parte della Banca Centrale Europea. I governi si assumono le responsabilità sul debito. Per la crescita non esistono bacchette magiche, ma riforme. E le riforme strutturali invocate da anni sono moltissime. Le incertezze dell'Europa, ha continuato il futuro presidente della Banca Centrale Europea, hanno aumentato il contagio. E poi Van Rompuy, che è il presidente dell'Unione Europea, ha detto: l'uscita della Grecia dall'euro è fuori discussione, stanno aumentando le pressioni su Italia e su Grecia. Secondo Barroso, presidente della Commissione Europea, in un discorso che ha pronunciato in Australia, l'Unione Europea e l'euro sono forti, non ci sarà una recessione. E poi sulla manovra italiana il portavoce del commissario per gli affari economici e monetari Olli Rehn ha detto: la valuteremo una volta che sarà definito e approvato l'intero pacchetto, non prima. Adesso rispondo a un ascoltatore e poi andiamo avanti. Nessuno sta facendo strumentalizzazioni, abbiamo detto due volte che la Germania perde più dell'Italia, l'Italia perde il 4,5% in borsa, la Germania perde il 5%, la Francia il 4,30% e in questo momento Londra al 3%. Se si guarda però non solo alla borsa, che quella italiana è calata più, molto più di quella tedesca, ma si guarda agli indicatori fondamentali per misurare il livello di incertezza o di certezza che viene attribuito al nostro paese, mi riferisco ai credit default swaps, e quindi al premio che si paga per le polizze per assicurarsi da un lato, e al rendimento dei nostri BTP rispetto ai Bund e rispetto anche a quelli spagnoli, ci si accorge che purtroppo l'Italia ha ampiamente staccato la Spagna come paese a rischio, 30 punti di differenza almeno sugli spread e 15 punti sui CDS. Questa è una novità rispetto a maggio-giugno, quando in quel caso la Spagna era ampiamente sopra noi. Ecco, tra l'altro vedo un ultimo dato, lo spread greco ha toccato un nuovo record a 1745, cioè praticamente se la Grecia dovesse mettere obbligazioni sul mercato renderebbero il 17% in più di obbligazioni tedesche, il 17%, cioè un livello che non regge nessun paese, un livello da strozzinaggio. Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente di Radio Corriere Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Distinguiamo le due cose, tra il problema complessivo e il problema nazionale nostro, perché oggi, come ho cercato di raccontare, mi dispiace se non ci sono riuscito, ci sono due fronti: il peggioramento complessivo di tutti i paesi area euro e anche America, e il peggioramento o l'allarme lanciato da Mario Draghi e da Trichet sulla nostra manovra finanziaria, che in qualche modo riecheggia, per chi l'avesse letto, il fondo di ieri di Giavazzi su Corriere della Sera, che diceva: attenzione, la Banca Centrale Europea comprando obbligazioni italiane rischia di avere un effetto morfina sul nostro paese, cioè di allontanare la percezione del rischio, la percezione di quanto siamo a rischio, perché tanto hai la Banca Centrale Europea che ti compra il tuo debito e mantiene basso il rendimento. Ti è sembrato questo lo spirito dell'intervento sia di Trichet che di Draghi? Ma sì, secondo me aggiungerei questa osservazione. Quando ci si riferisce all'Italia in termini di preoccupazione, che è una preoccupazione per la credibilità politica italiana, questa credibilità non è riferita alla coalizione in senso di governo in senso specifico, ma alla sua capacità di confezionare una manovra finanziaria senza disfarla ogni tre giorni, che sia tendenzialmente, che sia sostanzialmente strutturale e che sia convincente nei suoi esiti finali, cioè tante entrate, tanti tagli tante nuove entrate, tanti tagli sulle spese per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013. La questione della credibilità è quel plus politico che diventa benzina sui mercati. Effettivamente la preoccupazione sia dell'autorità europea, la Commissione, sia della BCE è quella di prodursi in una situazione di azzardo morale, o moral hazard, dicono gli inglesi, per cui l'intervento della BCE sui mercati con l'acquisto dei titoli italiani diventa il metadone che non risolve sostanzialmente la situazione e crea quella. Devo dire che metadone è meglio che morfina, perché rende ancora di più l'idea, cioè diventa un qualcosa che ti dà l'impressione di non avere un problema, ti solleva momentaneamente, ma in realtà tu resti con il problema inalterato che avevi un mese fa. E esatto. Voglio dire, passami in termine, insomma, il teatrino non mi piace, ma insomma, il continuo cambiare le norme della finanziaria, anche quelle di poco rilievo, per carità, non è che coi giorni di festività, delle feste laiche avremmo risolto chissà che problema, però il continuo cambiare qualunque elemento della finanziaria, adesso pure con l'articolo 8 di cui ci occuperemo tra poco, perché questo sta creando non pochi problemi, riaprendo la conflittualità sindacale, ma comunque modificare una finanziaria che non ha la fiducia e che rischia di appunto essere far la fine dell'assalto alla dirigenza sia al Senato che alla Camera, aumenta l'incertezza sulla tenuta dei saldi complessivi, che ne dica Tremonti poi. Siccome anche qua si ha una visione, diciamo, abbastanza come si dovrebbe avere dappertutto, una visione un po', diciamo così, storica tra virgolette delle questioni, qui si ricordano, a Bruxelles si ricordano tutti che tre anni fa il governo italiano diceva che non saremmo stati toccati marginalmente dalla crisi, poi si è detto che ne saremmo usciti prima e meglio degli altri. E poi ultimamente, da giugno, luglio soprattutto, è stato detto da parte italiana che in realtà il mondo era cambiato in quattro giorni e quindi ci si doveva affannosamente ricaricare le batterie con una manovra finanziaria, che poi è stata cambiata tre volte. Quindi voglio dire, il quadro, diciamo un po' di una situazione che in effetti non è stata sotto controllo, qui ce l'hanno in moltissimi, questo è il punto diciamo di preoccupazione, riguarda questo. Poi nessuno qui, ma anche oggi lo ha ribadito il portavoce del commissario degli affari economici Olli Rehn, nessuno mette in discussione diciamo il potere del Parlamento italiano di prendere le decisioni che deve prendere. Il problema è che sia chiaro e sia accertabile che con le misure che saranno prese dall'Italia si raggiungerà il pareggio di bilancio nel 2013. È questo che è in discussione. I saldi invariati. Allora io adesso poi magari le recuperiamo dopo, vorrei però ricordare quanto ci ha detto in diretta venerdì dal workshop Ambrosetti da Cernobbio Corrado Passera, che secondo me, al di là di tante analisi, ha detto una cosa che a me ha impressionato: l'80% delle volte che sono all'estero, ripeto, poi recuperiamo la voce, mi chiedono dell'Italia, non mi chiedono di Banca Intesa San Paolo. Una volta, due anni fa, era l'esatto opposto, cioè l'80% delle volte mi chiedevano di Banca Intesa San Paolo, di cui sono amministratore delegato, e il 20% delle volte dell'Italia. Questo è un segnale che a mio avviso spiega più di altri su quale sia l'incertezza e il dubbio, anche la non conoscenza degli operatori e degli osservatori esteri su quello che sta capitando in Italia. Non è sempre facile capire il nostro paese, non lo è per noi, figuratevi per chi sta all'estero. E ripeto, il fatto che a Corrado Passera chiedono l'80% delle volte un giudizio sull'Italia, sulla tenuta italiana, sulla politica italiana e non sulla banca, la dice lunga. C'è un appuntamento importante questa settimana, Antonio, che è un appuntamento proprio che riguarda la Banca Centrale Europea e le sue future strategie per quello che riguarda l'acquisto di obbligazioni anche italiane, di debito italiano. Sì, esatto, giovedì ci sarà la riunione del board, cioè l'organismo a cui partecipano tutti i governatori delle banche centrali dell'Eurozona, e lì sul tavolo c'è continuare o meno l'acquisto sul mercato secondario dei titoli pubblici, compresi quelli italiani. In effetti c'è la fronda, tra virgolette, i governatori più inclini, maggiormente inclini a tirare il freno su queste operazioni, è la Bundesbank, sono la Bundesbank, la banca centrale austriaca, la banca finlandese. Si tratta di capire quale sarà la discussione, anche se in effetti, come sappiamo, noi conosceremo soltanto l'esito finale. Sarà difficile che giovedì possano uscire allo scoperto i termini dell'effettiva discussione, a meno che non ci sia uno sforzo nuovo da parte della Banca Centrale Europea di chiarire i termini della discussione. Di solito questo non avviene, anche se la trasparenza della Banca Centrale Europea rispetto a quella scelta, la trasparenza praticata, ai modi di comunicazione praticati dalle altre banche centrali europee di livello tra le maggiori banche europee, delle banche centrali, è sicuramente molto elevata. Va bene, vediamo come andrà. Allora, no, risponde uno scrittore. Uno dice, ma insomma, se la Banca Centrale Europea non compra i nostri titoli non va bene, se li compra non va bene, mettetevi d'accordo. Era un po', se mi permette, più sottile il ragionamento fatto sia da Giovazzi che da altri osservatori, e cioè la Banca Centrale Europea interviene come emergenza e compra sul mercato titoli italiani perché a inizio agosto ricorderete cosa stava capitando, e comprando titoli tiene basso il rendimento, quindi permette all'Italia di non avere dei titoli che quando vanno a scadenza rendono una cifra che tocca ripagare, perché questi titoli li ripaga lo Stato italiano, quando vanno a scadenza, se vanno a rendere 6,5% dobbiamo dargli noi 6,5% invece che 5,70%. Un conto è però dire cosa fai per l'emergenza, e un conto è dire che cosa intanto devi fare tu come Stato. A me l'esempio del metadone piace molto, cioè tu puoi soccorrere un tossicodipendente con il metadone come emergenza, però poi lo fai disintossicare, non è che lo tieni, non è che siccome questo ha preso il metadone può pensare che vada tutto bene, madama la marchesa. Ecco, all'estero è sembrato che una volta ottenuto il salvataggio in extremis provvisorio, momentaneo, della Banca Centrale Europea, il nostro paese sia tornato, perlomeno nella sua componente politica, governo in primo luogo, ma anche l'opposizione, si è tornato a ragionare di appunto interessi particolari, interessi elettorali, interessi corporativi, e le pensioni no perché non le vuole la Lega, e l'altro aspetto no, la tassazione sulla patrimoniale no perché non la vuole PDL, insomma, e si sia perso di vista l'obiettivo finale, che è una manovra monstro, 140 miliardi alla fine in 2 anni e mezzo, attenzione. Allora, la chiusura di Milano, vabbè. Meno 4,83%, peggio ha fatto Francoforte, che è la peggiore oggi, meno 5,30%, Parigi meno 4,70%, Londra meno 3,20%, quindi sul fronte delle borse l'Italia non è la peggiore, insomma, poco gaudio visto il mal comune, ma insomma non è la peggiore. Ripeto, io farei più attenzione, per quel poco che ci capisco, agli indicatori che riguardano lo spread col Bund, e quindi quanto costa a noi di più trovare finanziatori per il nostro debito offrendo rendimenti più alti, ci costa più anche che alla Spagna rispetto alla Germania, e quanto è alto il premio sulle polizze per assicurarsi sull'Italia. I CDS sono superiori anche a quelli spagnoli, e questo per quello che riguarda la borsa. Vi arriviamo tra un attimo, prima però vorrei affrontare un altro tema che è emerso da questa finanziaria, domani lo sciopero della CGIL e dei sindacati di base, ma insomma la modifica all'articolo 8 che modifica le norme sui contratti aziendali. Ribadendo il numero per i vostri sms 349-238-6666, con la manovra arriva infatti la possibilità di derogare con i contratti aziendali e territoriali anche ai contratti nazionali e alla legge. Anche sul licenziamento, ad eccezione per quello discriminatorio per matrimonio, per gravidanze, quindi anche all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che impone il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se c'è un accordo tra l'azienda o anche il territorio con i sindacati più rappresentativi, questo accordo, se ho ben capito, ma adesso chiedo lumi, è più forte sia dell'accordo nazionale ma anche della legge vigente. E lo chiedo a chi insegna diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia, di cui appunto è ordinario, il professor Adalberto Perulli. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, mi faccia capire, al di là della valutazione politica che non interessa questo programma, cioè abbiamo registrato ieri le dichiarazioni del ministro al welfare Maurizio Sacconi, che ha detto non tocca la carta né dà libertà di licenziare, c'è più certezza per i contratti aziendali. Poi la Confindustria ieri in serata ha detto apprezziamo che sia introdotto il principio della validità erga omnes, quindi verso tutti dei contratti aziendali, riteniamo però riteniamo che questo articolo non sia in contrasto con l'accordo raggiunto con i sindacati lo scorso 28 giugno, che per noi resta il riferimento assolutamente essenziale nelle relazioni industriali. Come dire, noi andiamo avanti comunque con quello che abbiamo discusso e l'accordo fatto con i sindacati, non diciamo quello che ci viene detto dalla legge. Mi può far capire quali potrebbero essere i rischi, ma anche i vantaggi? Cioè, c'è un accordo tra l'industria X e le rappresentanze sindacali più rappresentative, e in alcuni casi possono essere CIS, UIL e CGL, in altri casi può essere solo la CGL, in altri casi può essere più la CIS, ma insomma i sindacati più rappresentativi. Questo accordo che forza avrà e che cosa può portare come conseguenze concrete? Allora, innanzitutto vorrei sottolineare la portata della norma di cui stiamo parlando, perché si parla molto dell'articolo 18, però non bisogna dimenticare che con questa norma in realtà il legislatore scrive una delega in bianco sostanzialmente alla contrattazione collettiva aziendale, sottolineo aziendale, con i nuovi emendamenti che sono stati approvati in commissione ieri, adesso esplicitamente si dice può derogare, cosa che non veniva detta nella formulazione precedente della norma, può derogare l'accordo aziendale sia ai contratti collettivi nazionali di categoria sia alla legge. Allora, vorrei soffermarmi un istante su questo punto, perché altrimenti si rischia un po' di banalizzare la questione, che invece in questi termini è una questione di natura epocale, cioè questa norma sovverte un sistema che esiste dal periodo corporativo, quindi insomma risaliamo al codice civile e ancora prima alle leggi dell'ordinamento corporativo, per cui in sostanza la regolazione del lavoro e del mercato del lavoro si basa su delle norme di legge inderogabili, cioè che non possono essere derogate né dall'autonomia individuale, cioè dal singolo lavoratore, né dall'autonomia collettiva, e poi il sistema si fonda su una contrattazione collettiva tendenzialmente di tipo acquisitivo, cioè si sommano dei diritti o si consolidano con la contrattazione collettiva dei diritti di origine legale. Allora, questo è un modello che... se ho ben capito, lei dice la prima cosa singolare è che in questo modo si permette a una contrattazione aziendale non solo di superare la contrattazione nazionale, questo diciamo in qualche modo era già entrato dagli accordi del 28 giugno, portavano accordi con Confindustria e altre parti sociali con i sindacati, che portavano a dire vabbè, usiamo la contrattazione nazionale come cornice, ma poi dentro lo riempie anche il quadro viene riempito dalla contrattazione aziendale. Lei dice la cosa vera è che va anche contro la legge nazionale, cioè un singolo. Allora le faccio una domanda ancora più concreta: se io sono un imprenditore X e faccio un accordo con le mie rappresentanze sindacali, che rappresentano il 95% dei miei dipendenti, con questa norma vuol dire che io posso andare anche a superare, andare anche contro quello che è la legge nazionale? Esattamente sì, questa è la formulazione della norma. Sotto certi aspetti imprecisa, magari sul piano tecnico poi possiamo entrare nel dettaglio, però questo è quello che dice la norma, cioè un contratto aziendale, peraltro stipulato adesso con l'emendamento che è passato ieri, stipulato anche da organizzazioni sindacali territoriali, quindi organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano territoriale, non solo sul piano nazionale, e questo apre un grosso problema, perché noi sappiamo bene quali sono le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, ma quali sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o comparativamente più rappresentative a livello territoriale è molto oscura. Ecco, professore, mi faccia capire una cosa. Su questo contratto può derogare a norme di legge, ma non solo con riferimento, dicevo all'inizio, al licenziamento, con riferimento a materie come l'orario di lavoro, a tutto, come le assunzioni con contratto a tempo determinato piuttosto che la somministrazione di lavoro, le mansioni, pensiamo al tema delle mansioni, quindi accordi derogatori alla norma, all'articolo 2103 del codice civile. Quindi anche ad eccezione del licenziamento discriminatorio, del licenziamento per, quello per matrimonio e gravidanza, quelli restano fuori però tutto il resto può essere, anche se la legge prevede un orario di lavoro, poniamo di 8 ore, tu puoi derogare e chiedere se i sindacati sono d'accordo, i sindacati della tua azienda, cioè più rappresentativi della tua azienda o del tuo territorio, sono d'accordo, puoi modificare anche quello. Domanda, allora, perché ho ancora un paio di minuti vorrei arrivare a questo punto. Può capitare, sulla base di quello che lei ha capito di questa norma, che due aziende vicinissime come territorio, in cui una però per motivi storico-culturali è presente più forte, poniamo la CGL, nell'altra è più presente la CISL, insomma, due aziende abbiano contratti così diversi che si possa parlare quasi di concorrenza interna, cioè che una fa dei contratti, mi passi il termine, più flessibili, quindi più produttivi, l'altra non riesce a farlo e c'è una concorrenza nell'arco dello stesso territorio? Assolutamente sì, io credo che questa norma generi una forma di dumping sociale a livello territoriale, con una sorta di balcanizzazione dei contratti, per cui ci saranno delle aziende che magari dentro lo stesso distretto hanno un accordo in deroga e altre aziende che, vuoi perché sono di dimensioni minori o vuoi perché in quell'azienda le organizzazioni sindacali non hanno aderito ad un accordo in deroga, non riescono a raggiungere questo effetto di flessibilizzazione. Allora, il problema che va messo in luce è che questa norma genera una grande imprevedibilità sotto questo profilo, cioè noi sappiamo che in ipotesi un accordo aziendale potrà derogare alla legge, ma non sappiamo dove, come e quando questo avverrà. Quindi una situazione di frammentazione imprevedibile che credo vada tenuta conto negli effetti anche controintuitivi, cioè non voluti, che una norma di questo genere può determinare. Faccio presente un'altra cosa: è stato introdotto nell'emendamento che questa deroga può essere valida, però nel rispetto della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Questo apre un problema interpretativo e applicativo enorme, perché c'è il rischio che questa norma, che da un lato autorizza le deroghe, ma dall'altro deve avvenire nel rispetto della Costituzione e di vincoli comunitari. Ma quali sono i vincoli comunitari? Quali sono le convenzioni internazionali sul lavoro che non potranno quindi essere derogate? Questo apre un'incertezza enorme e quindi una possibile conflittualità anche giudiziale, per cui è una norma che dal mio punto di vista apparentemente introduce grande flessibilità e addirittura sovverte, come dicevo, un sistema che si è edificato nei decenni, ma che ha delle conseguenze pratiche molto negative. Adesso devo salutare, però io penso una cosa: visto che c'è stato un accordo a fine giugno, il 28 giugno, tra la Confindustria e i sindacati e anche altre parti sociali, in cui anche la CGL è rientrata in qualche modo sulle posizioni, ha detto di essere più disponibile a accordi, al fatto che gli accordi aziendali vadano a integrare ed avere più forza rispetto agli accordi nazionali che devono fare sulla cornice, secondo me imporre con una legge quello che dovrebbe essere il risultato delle trattative tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, a meno che non venga richiesto, sarebbe meglio che venisse fatto dalle parti sociali, senza una legge che poi appunto crea anche i dubbi di interpretazione che abbiamo appena visto. Cioè, se tu puoi derogare non solo ai contratti nazionali ma alla legge italiana, e un imprenditore con 30 dipendenti ne trova 25 che si mettono d'accordo perché hanno la rappresentanza sindacale che la pensa così e fanno un contratto che non rientra nella legge italiana, è chiaro che ti esponi al rischio di ricorsi immediato, rischiamo di bloccare tutto. E poi balcanizza e frammenta la situazione, cioè due imprese vicine hanno due contratti di lavoro completamente diversi, allora uno verrà accusato di fare il cinese in Italia rispetto all'altro. Non oso neanche pensarci. Però la ringrazio, grazie al professor Alberto Perulli che insegna diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia. Dicevo, in questa giornata la borsa è una cronaca, ma tentare una spiegazione al di là dei motivi che vi abbiamo dato, che sono motivi europei e per alcuni casi italiani, è diverso. Lo spread italiano col BTP è salito a 370 punti proprio adesso, lo spread italiano col Bund tedesco, scusatemi, quindi a noi costa il 3,70% come differenza di rendimento quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende in più un'obbligazione italiana. Attenzione, perché un punto percentuale di PIL sono 15 miliardi, quindi i conti si fanno presto. E ancora è salito il CDS, cioè il premio per le polizze assicurative per assicurarsi contro il rischio default Italia. Non è salito a livelli neanche immaginabili rispetto a quelli irlandesi, non parliamo di quelli greci, cioè l'Irlanda è a 800 punti, noi siamo sul CDS molto meno, eccolo qua, il CDS irlandese è 825, noi siamo a 422, è il massimo storico comunque per l'Italia. Aspettate un attimo perché vedo una notizia d'agenzia, Moody's, agenzia di rating, dice che il voto all'Italia resta sotto osservazione. Vabbè, resta sotto osservazione, conferma che siamo sotto osservazione. Avevamo avuto questa sensazione anche senza Moody's. Comunque, la Grecia a 2.430 punti, l'Irlanda a 820, la Spagna a 410, noi a 420. Cioè ci collochiamo tra la Spagna e l'Irlanda. Per dare un'idea, la Francia, che pur li ha visti salire, è a 180 punti, quindi meno della metà dell'Italia. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Vogliamo trovare una spiegazione sui titoli o, diciamo, da dire che va giù tutto senza discriminazione? Va giù tutto senza discriminazione, okay, grazie, ciao, però qualcosina, diciamo, qualche temino c'era anche oggi nella giornata. Allora, di oggi. Unicredit meno 7,30% a 83 centesimi, Fondiaria Assai meno 7,20, Exor meno 7%, Intesa San Paolo meno 7% a 1,02 euro per azione, Fiat Industria meno 7,40, Fiat Auto meno 6,50, Saipem meno 6,11, Finmeccanica meno 5,90, Impregilo meno 5,80 come Tenaris, Mediaset meno 5,70, Popolare di Milano meno 5,5 come Buzzi, Unicem il 5,30 lo perde nel Green Power, Estima Microelectronics il 5% è il calo di Azimut. Chiudo con quelli che hanno perso più del 3%, che sono Eni meno 4,36 come Atlantia, Campari meno 4,20, Telecom meno 4 come Toz e Monte dei Paschi, Luxottica meno 3,90, Diassori meno 3,60 come Banco Popolare e anche le Generali, il 3,5 lo perde Ansaldo come Prismian, il 3,30 Parmalat, il 3,20 lo perdono Autogrill, Terna, A2A e Mediolanum, il 3% è il calo di Lottomatica. Qualche ragionamento in più, Guido, si può fare a questo punto sul titolo Telecom, direi, e anche Mediaset, che però poi ha recuperato alla fine rispetto al calo iniziale. Sì, Mediaset poi ha recuperato, anche se comunque la chiusura è comunque molto pesante. Su Mediaset c'era la questione dei dati sui ricavi pubblicitari in Italia del settore. La pubblicità in Italia nel primo semestre ha registrato una contrazione del 4,2%, la televisione ha fatto anche peggio perché è ceduto il 4,7%, per cui insomma segnalavano oltretutto anche con un giugno particolarmente negativo, il che fa presagire una seconda parte dell'anno non molto buona sul fronte pubblicitario. Per quello che riguarda Telecom Italia ha chiuso male perché comunque ha ceduto il 4% a fine giornata, ma per buona parte della mattinata era fra i titoli meno venduti, perché sembrava, c'era questa indiscrezione raccolta dal quotidiano brasiliano Valore Economico, che la partecipata brasiliana potesse vendere una parte delle sue quote rimanendo sempre in maggioranza, ma facendo cassa e ricavando circa 1 miliardo di euro. La notizia poi è stata smentita ufficialmente dalla società, per cui insomma anche le vendite sono tornate su Telecom, certo, Italia. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, visto che c'è un ascoltatore che dice è proprio un programma inutile, tra spot, musichette, tempo traffico, di sostanza ce n'è poca e di analisi zero, vabbè, io la colgo come una critica costruttiva, si dice in questi casi, e cita anche, dopodiché lo spot ci serve per vivere, il traffico è un'informazione di servizio, ecco, sulle musichette, come la chiama lei, mi assumo ogni responsabilità. Non avete neanche citato la causa contro le banche, perché, lo dico appunto chi ha molte più informazioni di noi, perché non l'abbiamo citata? Perché riguarda alcune banche anche europee, Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Credit Suisse, HSBC, non riguarda così tanto le banche italiane e obiettivamente, mi dispiace per l'ascoltatore, spiegare il calo di Unicredit meno 7,30% con la causa che starebbe intentando la Federal Housing Finance Agency, che controlla Fannie Mae e Freddie Mac, contro alcune banche americane, non solo, e spiegare con questo il calo di Unicredit, io non ce la faccio, mi dispiace per lei, perché non c'entra una beata niente. Allora Guido, sei d'accordo? Sì, diciamo che oggi non era quella la ragione. Ah. Ecco. Vabbè, altri titoli che bene sono andati, abbiamo visto Green Vision più 3,90, consoliamoci con la Lazio più 4,20, e indice sul risparmio più 3,40%. Sul fronte dei ciclici mi sembra che cali tutto, qualche difensivo ha tentato Terna, Snam e Parmalat, no? Sì, loro hanno tentato di resistere almeno fino al primo pomeriggio, ad esempio Parmalat per un breve tratto è addirittura stata positiva prima di chiudere a meno 3,37%, anche Snam Rete Gas meno 2,23% e comunque fra i titoli migliori del paniere principale, e Terna, altro difensivo per eccellenza, che ha perso il 3,23%. E su questo diciamo ci consoliamo per quello che riguarda i titoli. I peggiori in assoluto, presente, sono Stefanel meno 9,23%, Antica Pellettieri meno 11,76%. Ci sono novità su Edison, mi sembra. Allora, in Edison si cerca di capire, i francesi vogliono prendere controllo, diciamo tutte, gli azionisti italiani, A2A in primis, sono un po' divisi, il governo non vuole che i francesi facciano un'altra acquisizione dopo Parmalat e Bulgari. Novità su Edison? La novità è che c'era una scadenza per trovare l'accordo, che era quella del 15 settembre. Oggi il ministro dello sviluppo economico Romani ha incontrato il numero uno dei francesi, quindi Henri Proliot, e hanno deciso di darsi un po' più tempo per trovare un'intesa su Edison. La nuova scadenza è stata fissata il 30 ottobre. Tecnicamente si tratta di alcune settimane in più, anche per accontentare alcuni soci italiani che si consideravano un pochettino messi all'angolo. Potrebbe essere in prospettiva una notizia buona, diciamo così, per A2A e Iren, anche se oggi, certo, una giornata, certo, di vendite non è che si è molto visto in borsa. Allora, grazie Guido Marino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Per chi si fosse appena messo in collegamento, si è perso una delle puntate più allegre di Focus Economia: meno 4,80% Milano, meno 5,30% Parigi, meno 4,70%, meno 5,30%, scusatemi, Francoforte, meno 4,70% Parigi, meno 3,60% Londra. Euro a quota 1,41. I titoli non ve li ricordo, vi dico solo che Unicredit col 7,30% di calo è il peggiore ed è scesa a 83 centesimi di euro. Intesa San Paolo ha perso il 7% ed è scesa a 1,02 euro, per dare l'idea della pressione sulle banche. I CDS, ossia i credit default swaps, quanto costa il premio per la polizza per assicurarsi contro l'Italia, sono saliti a un nuovo livello record sopra quelli spagnoli, e anche lo spread, ossia la differenza tra il rendimento di un'obbligazione tedesca e l'equivalente obbligazione italiana, è salito a un nuovo record, 373, ampiamente sopra quello spagnolo, quindi a noi costa più, molto più che la Germania, ma anche un po' più rispetto alla Spagna, trovare finanziatori per il nostro debito. Di questo parleremo tra un attimo con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti, che ringrazio per averci raggiunto in studio. Ciao Alessandro. Salve a voi, buonasera agli ascoltatori. Vorrei far sentire a te e ai nostri ascoltatori quanto ci ha dichiarato durante Chernobyl Guido Rossi, noto avvocato in primo luogo, ma anche il creatore, il padre della Norman Antitrust, è esperto dei mercati. Un anno e mezzo fa gli ci disse, insomma, questa crisi mi sembra peggio del 29, questo un anno e mezzo, due anni fa. Gli abbiamo chiesto in primo luogo se gli è dispiaciuto aver ragione. Purtroppo mi dispiace, ma ho avuto ragione, perché in realtà la crisi è prodotta soltanto dalla finanza invece che dall'economia. La crisi del 29 aveva anche delle basi nell'economia reale. Questa invece è una crisi che ha travolto l'economia reale ed è esclusivamente dovuta ai mercati finanziari, e purtroppo tutto quello che si sta facendo aumenta la liquidità dei mercati finanziari e si fa di tutto perché la speculazione sui mercati finanziari continui a funzionare, lasciando invece indietro completamente l'economia reale. Quindi questa è la ragione per cui da un lato mi rincresce di aver avuto di aver azzeccato, e dall'altra purtroppo invece devo constatare che la soluzione è questa e non pare che ci siano rimedi. Sì, va detto che i vari governi, quello americano ma anche quelli europei, sono alle prese con gli attacchi ai loro debiti sovrani, quindi anche la necessità di ridurre il debito, perché questo debito è cresciuto più che in Italia in altri paesi in maniera abnorme, proprio per salvare le banche e le istituzioni finanziarie che si erano trovate nel mezzo di questa crisi dopo averla creata. Cioè è quasi beffarda come situazione, si attaccano, le agenzie di rating sono tra le prime, i paesi sovrani perché hanno troppo debito, quasi dimenticando che questo debito è stato creato per non far collassare completamente il sistema nel 2008. Esattamente, questa è la ragione per la quale il potere dei mercati finanziari è grandemente cresciuto con la finanziariazione dell'economia. Se uno pensa che il PIL del mondo intero nel 2010 è stato di poco più di 70 mila miliardi di dollari, beh, pensiamo che nei mercati obbligazionari, nei mercati delle borse di tutto il mondo, dei derivati che sono circa più di 450 mila miliardi, il mondo della ricchezza finanziaria è 8 volte più grande di quella prodotta in termini reali, cioè dall'industria, dall'agricoltura, dai servizi. E beh, se è più di 8 volte è chiaro che siamo entrati in un circolo vizioso, perché poi cercare di salvare la speculazione la rende ancora più incisiva sull'economia reale, che non ha nessuna possibilità di recupero. Ma allora secondo lei cosa andava fatto, cosa si dovrebbe fare? Perché quando Lehman Brothers fu lasciata fallire si disse è stato un errore perché ha creato il panico sul sistema, e da lì allora tutti a salvare le banche, in primo luogo americane ma anche poi quelle irlandesi, greche. La Banca Centrale Europea di fatto sta comprando obbligazioni italiane e spagnole. Insomma, la soluzione sembrò più, il minore dei mali sembrò quello di non lasciare che il sistema finanziario crollasse e implodesse per non generare il panico. Ma scusi, anche gli interventi della Banca Centrale Europea, così come gli interventi della Federal, che immettono nel sistema liquidità, hanno più come scopo quello di favorire la speculazione che di contrastarla. Perciò non lo so, probabilmente Lehman Brothers doveva essere lasciata fallire per riequilibrare un po' il sistema, e effettivamente questo è un circolo talmente vizioso che se non si interviene sulla correzione del sistema si continua a immettere liquidità per salvare le banche, ma tutto questo sistema, che poi è governato dalla speculazione, continua ad aumentare esclusivamente la speculazione. Quella divergenza tra economia finanziaria e economia reale alla quale abbiamo accennato prima diventa ancora maggiore, la forbice si allarga. E come si interrompe il circolo vizioso? Perché c'è chi ha detto Barack Obama in primis, ma anche l'Europa, avrebbero dovuto approfittare nel fine 2008, inizio 2009 della debolezza delle grandi banche finanziarie speculative, di tutto il mondo di Wall Street e della City, per imporre leggi più severe sul conflitto di interessi, sulla gestione dei risparmi raccolti dalla banca e invece gli investimenti speculativi della banca stessa. Cioè, secondo lei se ne esce con una regolamentazione più forte? Beh, non c'è dubbio che la regolamentazione più forte è necessaria nell'ambito del mercato finanziario e non si può, perché poi c'è l'altra cosa, è che bisogna che gli stati intervengano sui mercati finanziari con una regolamentazione molto più rigorosa di quella che attualmente esiste, perché l'accumulazione originaria oramai è un grado tale di concentrazione che la finanza mondiale, che è 8 volte maggiore dell'economia, non può più sopportare una politica esclusivamente monetaria, e quindi bisogna che gli stati intervengano con delle regolamentazioni precise, per cui tutto il settore della speculazione non sia più abbandonato a se stessa sulle finte teorie che sono i mercati a chiederlo, che sono i mercati che danno i giudizi, che i mercati sono gli unici veri arbitri imparziali dell'efficienza dell'economia e che tra l'altro si può raggiungere soltanto l'efficienza del sistema con l'obiettivo del pareggio dei bilanci pubblici, che non è vero, perché con questo sistema l'obiettivo del pareggio dei bilanci pubblici non produrrà, ammesso che la... Ce lo si ottenga, dice lei. Ecco, sì, appunto, e che inizi veramente una ripresa economica. Quindi. Secondo lei, visto che lei è un uomo di mondo, giurista, conosce molto bene la finanza, appunto ha scritto anche la legislazione antitrust italiana, secondo lei perché né la Casa Bianca né i governi europei hanno avuto la forza di imporsi sulla speculazione finanziaria o sulla finanza in senso anche non speculativo? Ma la ragione è che sono molto deboli. Se uno pensa che più o meno la troica che reggeva la politica economica del governo Bush è rimasta nel governo Obama, allora evidentemente c'è una enorme pressione e un enorme potere del mondo finanziario, o chiamiamolo dei mercati finanziari, sulle decisioni della politica economica. Oramai il problema è quello di salvare le banche, e le banche centrali finiscono solo per considerare l'emergenza del debito pubblico per salvare le banche, quindi per salvare la speculazione. Ma se uno va a vedere poi qual è la concentrazione della ricchezza nella speculazione, scopre che sono le grandi banche d'affari, sono le altre banche anche europee, certo, che speculano e che hanno il controllo di oltre il 90% del totale dei titoli derivati, che sono poi una delle principali ragioni di questo virus che ha colpito i mercati finanziari. Allora, Alessandro Paterotti, di nuovo in diretta chiaramente con Focus Economia, se vuoi commentare alcune delle osservazioni di Guido Rossi, ma mi interessa soprattutto la parte che riguarda la giornata di oggi e la componente nazionale in un calo generalizzato delle borse. Allora, con tutto rispetto al professor Rossi, che conosce molto bene i mercati, ma c'è da dire che insomma non è qui, i mercati non sono il diavolo, i mercati vivono e sostengono le politiche dei paesi, sono compenetrati nelle politiche dei paesi. Se non c'è un indirizzo politico su dove bisogna andare, come arrivarci, come stare insieme, questo è il caso dell'Europa, i mercati si adeguano e vivono alla giornata, si muovono a seconda delle dichiarazioni, e questo è il fatto vero su cui stiamo muovendo, non più su delle linee programmatiche, ma sulle dichiarazioni che giorno per giorno vengono fatte, vuoi dai politici, vuoi dalla BCE. Se un giorno Trichet dice non lasceremo mai l'Italia, il mercato tiene. Se il giorno dopo dice il nostro intervento è a tempo, il mercato cade. Ecco, questo non è possibile. Siamo in presenza di una Babele di idee, di una Babele di linguaggi e soprattutto di un'Europa che sempre di più sta dimostrando di non essere in grado di uscire dall'emergenza, poiché i mercati percepiscono emergenza e incertezza come le due leve su cui guadagnare, e quindi qui parliamo di speculazione, è il mondo, è il sistema europeo, è il mondo politico, è soprattutto paesi, l'incertezza che stanno dimostrando, l'incapacità progettuale di paesi come l'Italia, come la Grecia, come il Portogallo, come la Spagna, sono questi che creano le condizioni perché tutti ci impoveriamo un po' di più, sia attraverso il colpo sui titoli di Stato che attraverso la borsa, perché la borsa non è altro che l'ennesimo riflesso di questa incertezza. Allora, nelle dichiarazioni oggi la più forte, a mio avviso, anche Trichet ha detto attenzione, il patto è stato indebolito da Roma, da Parigi e da Francoforte, ma la più forte è quella del futuro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha detto non si diano per scontato gli acquisti di obbligazioni italiane o spagnole da parte della Banca Centrale Europea. Come dire, ne parlavamo all'inizio, non pigliate, come può prendere il tossicodipendente, questi acquisti come un metadone, perché il problema non l'hai risolto. Noi possiamo anche continuare a comprare il tuo debito per un po' di giorni e settimane tenendo basso il prezzo dei rendimenti, però tu devi risolvere questo problema. Quanto pesa in questo meno 4,80% Alessandro rispetto a Parigi meno 4,70%, Francoforte meno 5,30%, ma soprattutto sul livello raggiunto dagli swap e dai CDS, quanto pesa la variabile interna io nostra? Posso dirvi allora, la variabile interna nostra pesa sicuramente, altrimenti non avremmo avuto quell'apertura del differenziale di rendimento fra titoli di Stato nostri e quelli tedeschi. Quindi c'è un caso Italia, e basta guardare tutte le agenzie internazionali e gli analisti per leggere, rendersi conto che questo continuo cambiare la manovra, cambiare i provvedimenti, la coalizione, scontri all'interno della coalizione, queste sono esattamente le condizioni perché la speculazione ci colpisca. Detto questo, è bene che l'ascoltatore abbia presente una cosa: le incertezze e i dubbi di Trichet e di Draghi su quanto deve durare la politica di, chiamiamolo, allentamento quantitativo, cioè di riacquisto dei bond da parte della Banca Centrale, sono incertezze globali. Noi le abbiamo già viste nella Federal Reserve la scorsa settimana. Lì, per la prima volta, Bernanke e gli altri governatori ci hanno detto la politica monetaria da sola non basta per far ripartire le economie. Il sostegno, semplicemente, diciamo così, il sostegno contabile, cioè comprando di fatto titoli di Stato, da solo non può bastare a stabilizzare i mercati e a riportare le economie su binari di crescita. Serve un intervento politico. Quindi mi sembra che la BCE abbia raccolto la palla che ha lanciato la Fed, ovvero le banche centrali non vogliono restare con il cerino in mano in questa situazione, finendo poi per essere accusate di non aver fatto abbastanza per sostenere l'economia. Mi sembra che da Draghi e da Trichet sia partito lo stesso, con una scommessa in più. Mi sembra che loro stiano facendo da leva alla richiesta dei mercati in questo momento di rilanciare, ovvero non più piani di risanamento delle economie nazionali, ma percorso certo, fissato e condiviso per arrivare a un'integrazione delle politiche fiscali in Europa. Serve una sola voce, e questa è la scommessa che i mercati e la banca centrale stanno facendo insieme. E quindi, usando l'esempio di prima, le banche centrali, quella americana e quella europea, sono perfettamente consapevoli che nessun tossicodipendente si è mai curato con il metadone, che ci può essere un passaggio, scusatemi se sono un po' forte, ma che ci può essere un passaggio in cui tu utilizzi una terapia appunto anestetizzante, lo aiuti, ma se non risolvi in maniera strutturale i problemi di deficit, quindi di debito e di crescita anche, ma non è più anche, soltanto questo, non basta più, questo era fino ad alcune settimane fa, e anche acquistare i titoli, anche questa andrà a scadenza, e tu dici bisogna capire quando. Poi c'è il tema che a questo punto i singoli governi nazionali non riescono più a reggere questa ondata, e verrei all'ultima domanda, ed è a questo punto il boccino: se non lo possono tenere le banche centrali a lungo perché è un fiammifero che si brucia nelle loro dita, e non vogliono farlo anche perché ogni volta che loro comprano obbligazioni stampano di fatto moneta, certo, nel senso mettono liquidità nel mercato e quindi contribuiscono, ma che viene bruciata, che viene bruciata oggi 19 miliardi solo a Milano. E se non bastano più gli elementi nazionali, che cosa potrebbe cambiare l'umore dei mercati per non andare avanti in settimane a commentare giornate come questa? Sì, ancora una volta mi rifaccio a qualche settimana fa. Ricordate tutti quando i mercati bocciarono il famoso incontro Merkel-Sarkozy? Perché lo bocciarono? Perché da lì uscì semplicemente una rassicurazione sul fatto che Francia e Germania avrebbero dialogato e coordinato le loro politiche. Quello che si aspettava il mercato era che parlassero di Europa. Qui è importante, a questo punto, se l'Europa vuole uscire nel suo insieme da questa situazione di stallo, è che i capi di Stato e di Governo si riuniscano e decidano come fare una roadmap, una vera, come dire, un master, chiamatelo come volete, una serie di tappe per arrivare all'integrazione, certo, delle politiche di bilancio, un sola voce come in America, una sola politica di bilancio, una sola moneta, una sola espressione in questo senso anche economico. Questo però, e concludiamo, è il fallimento anche, oltre che di tutti i problemi che abbiamo ricordato e le inadempienze, inadeguatezze in alcuni casi della politica italiana, Ma è anche un po' il fallimento della linea Merkel, cioè Angela Merkel dall'anno scorso che continua a porre dei distinguo molto forti, prima sul salvataggio della Grecia, poi sull'Irlanda. Cioè, l'idea che la Germania potesse essere potesse essere sostanzialmente un grande distinguo rispetto a altri paesi dell'area sud viene meno in questa lettura, Alessandro. No, è più che altro che sono state le incertezze della Merkel nel dire dove deve andare la Germania. Una volta la Merkel è europeista, un'altra volta ci dice che gli eurobond non bisogna farli. Una volta ci dice che la Germania è pronta a fare la sua parte per salvare l'Europa, un'altra volta ci dice che non è un pozzo senza fondo. Allora, qui il problema non è più guardare la Merkel, ripeto, ma assumerci la responsabilità. Due responsabilità. La prima è accettare che se qualcuno non ha i conti in regola e non è capace di rimettersi in regola, può anche fallire. La Grecia andava lasciata fallire. Oggi la discussione più animata fra gli economisti qual è? Che l'Argentina cresce con tassi del 9% dopo il default. Allora, dovevamo farla fallire la Grecia? Probabilmente sì. Andava ristrutturato il debito greco subito? Sicuramente sì. Adesso è per questo che gli occhi sono puntati sull'Italia, perché finché si continuano con le politiche assistenzialiste da parte dell'Europa nei confronti dei paesi inadempienti, ci sarà sempre lo spazio per guadagnarci sopra. E quindi meno morfina, in questo caso metadone, e più realismo. Vi avevo promesso un Corrado Passera, ascoltiamolo assieme, perché quello che a mio avviso dà la sensazione di quanto sia cambiata anche la percezione dell'Italia all'estero. L'80% ecco, nel roadshow è sull'Italia, sull'Italia e sull'Europa. Prima non era così, era il 20-80? Era molto diverso, adesso la preoccupazione, insomma il tema del debito sovrano è diventato una preoccupazione globale, del debito sovrano europeo è diventato, e noi dobbiamo velocemente togliere questa cappa di piombo che ci abbiamo addosso in Europa. Avete capito? Corrado Passera, numero 1 di Intesa San Paolo, dice: l'80% delle volte che io sono all'estero con un roadshow per parlare della mia banca mi chiedono del debito italiano. Prima succedeva il contrario, giustamente. Alessandro, in chiusura. Velocissimi, Passera ha ragione, ma gli chiedono dell'Italia, non più della banca, perché Intesa ha circa 500 miliardi di euro impegnati sull'Italia, che rappresentano quasi un terzo del prodotto interno lordo italiano. Certo. Se l'Italia affonda, affonda anche Intesa. Chiedono alle banche italiane dell'Italia, perché le banche italiane hanno moltissime obbligazioni italiane e hanno comprato molto debito italiano. Consolatevi con la serata, con la programmazione radiofonica, con la programmazione televisiva, con i ristoranti, le pizzerie, i bar, per chi ha ancora i soldi. Io vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Grazie vice direttore del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Alessandro Platerotti, l'ultimo aggiornamento del Wall Street non ve lo posso dare perché oggi è Labor Day e almeno Wall Street era chiusa e quindi è andata bene, almeno quella. Radio 24. La passione si sente.